Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sante Notar Nicola, parte dodicesima. Ormai diventava scuro quando arrivò il procuratore. Quando mi recai a parlamentare, mi avvertirono che gli altri raggi avevano rifiutato il colloquio. Immediatamente entrarono nel cortile un centinaio di agenti carcerari e di pubblica sicurezza. Tre o quattro detenuti ruffiani crearono lo scompiglio e il panico, portandosi appresso gran parte della massa. Fu una mossa imprevista, ne avremmo tenuto conto. Infatti, il giorno dopo, costoro furono duramente puniti. Continuammo a trattare. Oramai eravamo ridotti a una ventina di persone, troppo pochi per opporre resistenza. Volò qualche cazzotto, ma subito smettemmo, rientrando in cella, tra due ali di agenti. Non fummo toccati. Era sabato sera. Il lunedì mattina la corte si ritirava in camera di consiglio per decidere la sentenza, ma la domenica si scatenò la caccia a quei detenuti che avevano tradito. Furono in molti ad andare in infermeria. Intanto il quinto raggio aveva resistito. C'era stata battaglia grossa e fu per questo che le presero forte gli infami che avevano rovinato il finale. A mezzogiorno della domenica venne una schiera di guardie e mi portarono nuovamente alle celle di punizione. A San Vittore la mia vita, in comune con gli altri detenuti, era durata poco più di un mese. Il lunedì mattina in tribunale c'era animazione tra i giornalisti. Mi prendevano di mira. Non sapevo che mentre la corte si accingeva a giudicarmi, avevano addossato a me e ad altri la responsabilità della rivolta. Dopo la sentenza restai alle celle ancora qualche giorno. Una sera mi prelevarono per portarmi alla nuova destinazione, Volterra, carcere di punizione e di rigore. Più tardi mi raggiunse una citazione della Procura di Milano. Ero imputato di danneggiamento, incendio, lesioni, resistenza e altro. Ma sarebbe poi arrivata l'amnistia e di questo processo non si sarebbe più parlato. Partimmo tutti e tre insieme. Piero era diretto a Porto Azzurro, Adriano a Pianosa e io a Volterra. Presi posto con Cavallero su una macchina di grossa cilindrata. Rovoletto ci seguiva su un'altra quattro gazzelle di scorta. Partimmo alle 23 da San Vittore e viaggiammo tutta la notte. Era una bella notte d'estate e non mi stancavo mai di guardare le stelle. Chissà quando le avrei riviste, che giusto presentimento. Intanto con Piero commentavamo il processo. Non era contento della mia posizione rinunciataria né del suo atteggiamento di contestazione, ma verso la fine del processo lo avevo appoggiato. La vecchia rabbia era venuta fuori. Ricordo qualche giorno prima mi aveva chiesto come reagiremo quando ci daranno l'ergastolo. Ma, avevo risposto, cantiamogli una bella canzone, almeno li faremo andare fuori dai gangheri. Sai, una di quelle canzoni che cantavamo alle manifestazioni della FIGC, figli dell'officina. Forse questa va bene. E così fu. Ma una canzone non spiega nulla, e glielo dissi. Avremmo dovuto presentarci con altri argomenti. Piero ironizzò. Sì, con il mitra in mano. Non raccolsi. Gli risposi solo. Beh, il mitra lo abbiamo avuto, ma non l'abbiamo usato nel senso giusto. Ormai i nostri rapporti non erano più come prima. In me si era rotto qualcosa, e lui lo sapeva. Che dell'antica amicizia c'era ormai poco. A mano che si penetrava in Toscana, altre macchine di carabinieri ci precedevano e altre ancora si accodavano. Era l'alba quando entrammo nella vecchia cittadina etrusca. Il penitenziario era un vecchio castello mediscio, i torrioni erano altissimi. Quando lo vidi ebbi un po' di paura. Lo conoscevo già di fama, anche i miei compagni erano intimiditi. Senza dirmelo mi commiseravano. Scesi carico di catene, tra un nugolo di carabinieri, contai almeno una dozzina di gazzelle, salutai con un cenno senza una parola. Piero e Adriano ed entrai. Molte guardie mi attendevano, mi fecero spogliare nudo, mi diedero una casacca da galeotto e mi pilotarono alle celle di isolamento. La prima cosa che mi si parò davanti agli occhi, stanchi e assonnati, furono gli spruzzi di sangue contro il muro lasciati da altri detenuti. Quasi subito mi addormentai. 17 giorni dopo venivo ammesso alla vita in comune. Mi resi subito conto che Volterra veniva condotto col terrore. Un torinese mi disse subito che lì i linciaggi e i mesi di isolamento erano all'ordine del giorno. Mi misi in guardia contro i provocatori e le spie mandate dalla direzione a offrirmi seghetti e piani di evasione. Era una mossa per saggiare le mie intenzioni e reazioni. Le perquisizioni erano continue, corporali, e nella cella in cui vivevo avvenivano all'improvviso, anche 2 volte al giorno. Non potevo fare un passo se non accompagnato da un agente. Avevo il problema del lavoro, non avevo soldi per fumare, per scrivere, per integrare il pessimo vitto che l'amministrazione passava. Dopo un mese di questa vita mi diedero un posto negli uffici dei conti correnti. Si trattava di tenere la contabilità delle spese sostenute dai miei compagni per il sopravvitto. Era uno dei posti più ambiti nel carcere, me ne stupii, ma presto cambiai idea. 2 giorni dopo misero 2 cancelli supplementari che sconvolsero la routine degli altri detenuti, impiegati, togliendogli quelle poche agevolazioni che avevano. Verso di loro mi sentivo un po' in colpa, anche se non me lo facevano pesare. Passarono mesi apatici, non mi interessavo di niente. Accettavo passivamente questa condizione. L'unico barlume, l'unica luce venne il 6 gennaio 69. La giunta comunale del paese aveva stanziato una piccola somma per il penitenziario. Avevano acquistato dolci e caramelle, ne fecero dei pacchi e il sindaco, onorevole del PC, venne a distribuirli. Ero scandalizzato, nauseato. Una giunta del PC in un carcere che era un lager. Distribuire caramelle. Quando passarono onorevole, direttore, maresciallo e relativa scorta davanti alla macella, guardai quel signore con in mano il pacchetto da donarmi. Lo guardai negli occhi e con voce alterata gli dissi: rifiuto questo pacco, non ci servono le caramelle, ma ben altro per risolvere le nostre condizioni. Si guardarono l'un l'altro stupiti da questa mia reazione e imbarazzati girarono sui tacchi e passarono oltre. Era troppo per Volterra, prima o poi l'avrei sicuramente pagata. Ne parlarono persino i giornali. Questo episodio, apparentemente poco importante, servì ad aprire una discussione all'aria. Tutti dissero la loro, i vecchi, vinti, disapprovarono, mentre i giovani erano rammaricati di non essere stati preavvertiti perché avrebbero rifiutato anche loro in massa. Infatti, altri 2 detenuti che avevano notato la scena del rifiuto di loro iniziativa avevano seguito l'esempio rifiutando. Il gesto non l'avevo premeditato, era stato istintivo, avevo agito d'impulso, quando avevo visto le autorità con le caramelle in mano, come se fossero allo zoo. Fu così che si formò un piccolo gruppetto, eravamo 5 o 6 e nelle ore del passeggio cominciavamo a discutere di politica e si commentavano le lotte studentesche. Ogni tanto qualcuno si aggregava alla discussione. Cominciarono a saltare fuori, non si sa come, libri che ci scambiavamo. Gridavamo sempre più forte per prenderci la ragione. Si creò così una nuova atmosfera che ebbe impulso quando arrivò Riccardo d'Este. aveva fatto parte del movimento studentesco, era preparato politicamente e fu utile alla nostra formazione. Ma c'erano anche altri bravi compagni, Cesare Anichini, Dino Ottavi, Vittorio Fabris. A Cesare Anichini, un fiorentino alto e biondo, non piaceva avere torto e nelle discussioni ci metteva tutta la sua violenza. Era un ragazzo fondamentalmente buono, con un passato politico di sinistra, poi aveva pensato alle rapine. Ma per fare le rapine occorrevano armi e queste le ha il nemico. Seguendo questo ragionamento, pensò di procurarsele in una caserma di carabinieri. Accusarono un anziano calzolaio fiorentino di essere il capo del comando. Quel compagno è poi diventato celebre come il ciabattino di Mao. Dino Ottavi stette poco con noi. Era un detenuto politico particolare, uscito dal PC di Alessandria. Decise di mettersi a far politica in proprio. Faceva in casa il suo giornale e andava a incollarlo per le strade. Attaccava tutti, da Saragat all'assessore dello sport di Alessandria, e con un linguaggio toscaneggiante. In questo modo si collezionò un sacco di denunce, tra le quali oltraggio e resistenza. Vittorio Fabris, veneziano e buon bevitore, simpatico e intelligente, spesso si metteva nei guai con la direzione per aiutare i compagni. Aveva uno spiccato senso dell'umorismo e con lui il tempo passava alla svelta. Politicamente allora aveva le idee un po' confuse, come la maggior parte di noi. Questo fu il primo gruppo che creammo e che qualche mese dopo dovetti lasciare per andare a Milano per il processo di appello. Tornavo a San Vittore dopo 15 mesi, senza progetti, senza speranze. Era l'ottobre 69. A San Vittore fui messo al primo raggio. C'erano Braschi, Faccioli, i compagni anarchici arrestati ingiustamente per una serie di attentati compiuti dai fascisti. Feci subito amicizia. Ero contento di essere ritornato. Mi sentivo rivivere. Sentivo, quantunque in carcere, le pulsazioni della grande città. Qualche giorno dopo entrò nel nostro raggio un giovane bruno con una barba folta. Gli occhiali aveva uno sguardo intenso e malinconico. L'incontro con quell'uomo avrebbe cambiato il corso della mia vita. Si chiamava Andrea Valcarenghi. L'avevano messo dentro per una storia di erbe e sembrava preoccupatissimo. Era già stato arrestato 2 volte per obiezione di coscienza e vilipendio delle forze armate. Stava per pubblicare una rivista che avrebbe divulgato delle notizie esplosive sulla polizia. Allora era scattata la provocazione della droga. Mi chiese angosciato quanto rischiava. Risposi: beh, più di 2 anni non ti danno. Sgranò gli occhi: 2 anni? Accidenti, come potevo spiegargli che io il tempo lo misuravo con un altro metro? Gli dissi: scusami, non volevo spaventarti. Comunque, se ti senti giù, prova a metterti un momentino nei miei panni, chissà che non ti senta un po' meglio. Cosa vuoi che siano 2 anni di fronte all'ergastolo? Perché tu... Già. Presto facemmo gruppo. Gli argomenti di discussione erano soprattutto le lotte politiche di quei mesi e le accuse ai compagni anarchici. Io portai il discorso su Volterra, dissi loro ciò che avevo visto e sentito. Raccontai le violenze quotidianamente inflitte, le ingiustizie nelle condanne e nell'esecuzione della pena, le brutture di una convivenza impossibile, l'abbandono in cui vengono lasciati i detenuti e il loro odio, sempre più grande e sacrosanto, verso tutta una gamma di gente che li sfrutta, un colossale apparato di giudici, avvocati, carcerieri, questurini, del quale essi sono strumento, e parlai loro del nostro piccolo gruppo. Un giorno che ero in cella con Andrea, gli raccontai tutte le mie esperienze, gli dissi di Piero, di Adriano, tutte le cazzate che avevo fatto. Parlai a lungo, per la prima volta mi sfogai e mi sentii meglio. Andrea fu attento, mi fece qualche domanda, mi consigliò di spiegare queste cose al processo, ma il tempo era breve, eravamo alla vigilia, mi aiutò a fare qualche modifica a un documento che avrei dovuto consegnare ai giudici. Fece qualche obiezione, aggiungemmo qualche chiarimento e il processo ebbe inizio. Fui fortunato, durò solo 2 giorni. Il giudice rinviò la causa per l'annullamento delle perizie psichiatriche per un difetto di procedura. Stabilirono di fare la superperizia a San Vittore. Ne avremmo avuto per molti mesi. Intanto il gruppo del primo raggio diventava sempre più folto. Ogni tanto entrava qualche giovane compagno, arrestato nel corso delle lotte esterne. Veniva subito assediato, ci facevamo raccontare i particolari della situazione fuori e per vie clandestine arrivava qualche copia dei giornali del movimento. La sera del 12 dicembre nel carcere si sparse la notizia dell'attentato alla banca di Piazza Fontana. Intuimmo che il raggio si sarebbe riempito di nuovi compagni e organizzammo un po' di aiuti, specialmente sigarette. Infatti, tutto un piano del raggio fu riservato a loro, non potevamo avvicinarli. Tuttavia, usando una certa autorità che il mio mandato di cattura mi conferiva agli occhi dei guardiani, andai ugualmente a distribuire quanto avevamo racimolato. Fu così che conobbi le figure più significative dei gruppi di sinistra. Si creò una corrente di simpatia personale che scaturiva soprattutto dall'umanità di quei comunisti. Questo rapporto personale si sarebbe poi rafforzato e sarebbe venuto utile in seguito, quando il nostro sarebbe diventato un movimento. Infatti, più che da un preciso piano politico, esso è nato da un rapporto umano e solidale, da uno scambio tra noi comuni e loro politici. Nella fase iniziale furono determinanti i rapporti personali. Noi capimmo che potevamo inserirci con le nostre lotte nei temi rivoluzionari del movimento. La discussione, l'atteggiamento autocritico, l'esempio di un comportamento corretto fecero sì che molti comuni si guadagnassero in quel periodo la fiducia e la stima dei politici. Non solo a San Vittore, ma anche alle Nuove di Torino succedeva la stessa cosa, e forse con risultati anche migliori. Le proposte e i piani di lavoro vennero poi. 2 giorni dopo Pinelli era suicidato. Gli anarchici ne erano sconvolti. Ci parlarono a lungo di lui e capimmo che era un uomo da rimpiangere. Qualche giorno dopo qualcuno propose di fare una colletta per la famiglia Pinelli. La direzione rifiutò l'inoltro di quanto raccolto. In seguito ci saremmo fatti più furbi e di certe autorizzazioni ne avremmo fatto a meno. Ci si muoveva su un terreno difficile, a mano che si facevano le cose si acquistava esperienza. In quei giorni conobbi Claps, Valitutti, Sante Zanon, Ginosa e decine d'altri che la repressione padronale aveva portato in carcere. Furono liberati dopo una decina di giorni, mentre più lungo fu il soggiorno al primo raggio dei compagni arrestati negli scontri di Via Larga, il giorno in cui trovò la morte l'agente Annarumma. Tra questi i più bravi mi sembrarono Alberto Prada, Giuseppe Spagnullo e Giuseppe Moneta. Si fermarono tra noi, insieme ad altri 10 giovani, un paio di mesi. Fu allora che cominciammo a fare qualche riunione, alla quale ero sempre invitato. In genere si discuteva l'atteggiamento al processo e nel corso degli interrogatori e il peso delle accuse. Le prospettive erano poco allegre. Si temeva volessero far pagare a questi giovani la morte del poliziotto. Stavamo attenti anche che qualche ragazzo non entrasse in crisi e quando succedeva lo curavamo più degli altri. Vennero i giorni del loro processo, ogni sera aspettavano novità. Dalle loro facce cercavamo di intuire come andavano le cose. Debbo dire che si comportarono tutti bene. Segni di debolezza non ce ne furono, neppure quando il pubblico ministero chiese pene pesanti. Un pomeriggio ero con Andrea Braschi e qualche altro. Aspettavamo che tornassero. Ci sarebbe stata la sentenza ed eravamo preoccupati, soprattutto per Spagnullo. Dagli uffici Verso la matricola sentimmo prima grida, poi nitido il canto dell'internazionale. Assolti tutti. I detenuti erano sui ballatoi. Quando entrarono, molti di noi si unirono al canto e chi non lo conosceva faceva lo stesso un po' di casino. 2 ore dopo la scena si rinnovò, ma stavolta ci fu l'emozione degli addii. Molti compagni evitarono di salutarmi, l'imbarazzo era evidente. Andai all'ultimo piano e li vidi andar via. Si fermarono ancora un attimo vicino al portone e noi rispondemmo al loro saluto con i pugni alti. Andrea commentò: "Ecco un altro errore del sistema. Vedi, di comunisti ne sono entrati 3 all'arresto, più 10 passanti. Oggi escono 13 compagni. Possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto." Era il 2 febbraio del 70. Uscendo, i compagni lasciarono 5.000 lire sul mio conto, che servirono alla fondazione di una cassa comune Soccorso Rosso. Con Adriano e Lopez avevamo un camerone al quarto piano del primo raggio. In genere questo doveva servire per 6 persone, ma la direzione ci concedeva delle piccole agevolazioni. Ormai la stanza era diventata il punto d'incontro del nostro gruppo. 2 mesi dopo ci fu la prima vera lotta organizzata e condotta dai compagni. Era stato presentato alla Camera un progetto di amnistia, ma questa contemplava solo i reati scaturiti dall'autunno caldo e che riguardavano gli studenti e gli operai. Nel carcere tra i comuni ci fummo l'amore. Alcuni ci rivolgevano delle critiche. Dicemmo loro che in parte dipendeva da noi fare modificare quel disegno di legge ingiusto e proponemmo un periodo di agitazione. Nel primo raggio c'erano le condizioni ideali, condizioni che difficilmente in avvenire si sarebbero ripresentate. Andrea controllava il gruppo dei detenuti, numeroso, per stupefacenti. Rovoletto ed io eravamo in ottimi rapporti con alcuni big del racket, che a loro volta controllavano gran parte degli altri detenuti. L'accordo fu presto preso, saggiammo le nostre forze e le intenzioni della direzione. Decidemmo di fermarci tutti all'aria, non saremmo rientrati nelle celle. Il cortile del passaggio era stretto e a malapena contava 200-250 persone. Si prepararono delle lenzuola su cui scrivemmo delle parole d'ordine, che scandimmo a gran voce. Altri raggi seguirono l'esempio. L'entusiasmo era forte, vennero i dirigenti carcerari a parlamentare, rifiutammo. Il nostro scopo era far muovere le forze di polizia esterne in modo che i giornali ne parlassero l'indomani. Non cercavamo lo scontro diretto. Infatti arrivarono 300 celerini. Tirammo le cose per le lunghe. Alla fine, 3 ore dopo l'orario del rientro dall'aria, tra 2 ali di poliziotti, ritornammo alle nostre celle. Il giorno dopo controllammo i giornali. L'obiettivo era stato raggiunto. Nel mio camerone ci fu una lunga riunione e decidemmo le azioni successive. Il raggio rispondeva bene. Per una lunga serie di giorni decidemmo la disobbedienza ai regolamenti. Dovevamo cercare di mettere sotto pressione le guardie di custodia, non ubbidire alle ore di rientro nelle celle, ma senza apparente organizzazione. Ognuno doveva regolarsi come meglio credeva, ma senza arrivare ai limiti estremi. Praticamente facevamo perdere del tempo agli agenti. Ogni giorno alle 16 venivano i sottufficiali a pregarci di rientrare, ma noi perdevamo 3 quarti d'ora di tempo e intanto a gruppi scandivamo tutto il giorno: "Amnistia, amnistia". I tempi erano maturi per mettere a punto il piano prestabilito. Sciopero della fame. Intanto incoraggiavamo azioni, apparentemente estemporanee, che singoli individui prendevano per motivi personali. Gente che si barricava perché voleva il giudice, per sapere della sua pratica. C'era chi si arrampicava sui cornicioni, chi si autolesionava in modo clamoroso, gente che minacciava il suicidio. E tutto questo serviva a tenere su di giri l'ambiente. Appena indetto lo sciopero della fame, Tutto il raggio rispose compatto. Due o tre che non volevano farlo vennero evacuati in tutta fretta. Cominciò il primo raggio, ma già a mezzogiorno risposero gli altri raggi. Alla distribuzione dei pasti passava uno scorpino simpatico, ma poco socievole. Era uno spasso vedere Pippo fare la distribuzione della minestra. Aveva sostituito la grossa marmitta che adoperava usualmente con un piattino e un po' di brodo. Si presentava davanti alle celle e serio annunciava «minestra». E ti guardava in faccia in un modo che se anche avevi qualche segno di debolezza preferivi rifiutare l'invito. Comunque non tutti potevano resistere. C'erano diverse persone anziane e qualche giovane di 18-20 anni che soffrivano troppo. Organizzammo quindi una rete clandestina per costoro di distribuzione. Di questo si occuparono i big della mala e furono davvero molto bravi. Intanto parte delle guardie solidarizzava tacitamente con noi e quando c'erano movimenti si giravano fingendo di non vedere. Al terzo giorno di sciopero la direzione propose di formare una commissione di detenuti. Dal nostro raggio ne scegliemmo tre, tra cui Andrea Valcarenghi. Stilammo un documento in cui mettevamo in evidenza la separazione ai danni dei comuni. Mettemmo in risalto la lentezza e le pecche della macchina giudiziaria, le migliaia di casi di detenuti che non sapevano quando avrebbero affrontato il giudizio. Non erano disposti a pagare gli errori di un sistema che faceva acqua e la lentezza della burocrazia. Intanto, visto che l'amnistia riguardava i politici, tutti ci dichiarammo detenuti politici. Contemporaneamente la direzione tentò di far passare un suo documento, ma non ci riuscì. Tutti i detenuti in massa firmarono il nostro, che fu inviato alle massime autorità del paese e per conoscenza ai quotidiani, che ne pubblicarono ampi stralci. Pochi giorni dopo l'amnistia fu allargata. Avevamo vinto. Adriano e io naturalmente non beneficiammo dell'amnistia, ma eravamo contenti del lavoro svolto. In quei giorni vedemmo a decine gli amici uscire, i più sensibili, come al solito, evitarono di salutarci. Qualche giorno dopo ricevemmo una lettera o una cartolina. Anche altre carceri parteciparono alla lotta, Torino, Bologna, Firenze, Genova, eccetera. La lotta fu veramente comune. Stava nascendo il movimento nel carcere. I detenuti a volte nei loro discorsi lamentavano la mancanza di un minimo di unione, ma intanto sempre più spesso esplodevano in massa, nei grossi giudiziari e confermavano che lottando uniti era possibile ottenere risultati positivi e, cosa più importante, si acquisiva una nuova dignità. Ma se il fattore unità era risolvibile col lavoro assiduo di determinati compagni in grado di portare avanti un certo discorso, visto che possedevano gli strumenti per farlo, dovevamo però trovare alleati esterni in grado di aiutarci in certe iniziative e portarle avanti nel modo giusto e legarci allo sviluppo che nel paese avevano le lotte. Cominciavo così, a poco, a intravedere quali sviluppi potesse avere politicamente un lavoro del genere. Spesso mi pareva di essere tornato nella fabbrica, nella barriera. Il linguaggio politico risaltava fuori e con piacere lo sentivo da gente che incominciava appena a interessarsi al movimento, che sia pure tra difficoltà e contraddizioni cresceva di giorno in giorno. Aspettavo in quel periodo le prove di superperizia psichiatrica per il mio processo. Parlai a lungo con Andrea e gli prospettai la decisione che andavo maturando di rifiutare la prova. Volevo compiere un gesto che in parte mi staccasse dal passato, che giorno per giorno rinnegavo. Era una decisione importante la mia. Mi rendevo conto che bruciavo l'unica residua, sia pur minima, possibilità di farmi togliere l'ergastolo. Andrea disse che doveva essere una decisione personale, rischiavo grosso e solo io avrei potuto decidere, ma in cuor mio avevo già deciso. Presi accordi per un documento che gli avrei mandato e lui avrebbe pensato alla diffusione. Anche Andrea uscì. Fu come se uscisse mio fratello. La stessa gioia, la stessa malinconia. Mi chiedevo se lo avrei più rivisto. Gli regalai il mio quaderno di poesie. Contraccambiò con la rivoluzione russa di Trotsky. Quando andò via, aprii quel libro e lessi la breve dedica a Sante, un rivoluzionario tradito, Andrea. Il raggio fu rapidamente smobilitato, parte uscì per l'amnistia, altri furono smistati in altri raggi. La direzione ci isolava, eravamo ormai solo una ventina di persone, per fortuna ci lasciarono Braschi e Della Savia. Si discuteva molto sui compagni usciti e sul loro processo. Mettevo in risalto il danno che a mio parere avrebbero provocato certe divisioni che obiettivamente fra loro esistevano e lavoravo per smussare gli angoli, per modificare atteggiamenti. Libri ribelli. Libri ribelli.